sicuramente far finta di niente è difficile, secondo me è anche difficile gestire alcune situazioni. Mi auguro che comunque vengano prese le mie decisioni per tutelare tutti. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bisogna andare a capire cosa sta succedendo, ma in questo momento Parma e Spal tornano all'interno dello spogliatoio. Il ministro dello sport sta valutando di sospendere immediatamente il campionato. Un gesto irresponsabile della Lega di Serie A e del suo presidente D'Alpino. E per altre questioni, come per la questione dei diritti televisivi e di altro, c'è anche una responsabilità poi economica, un interesse importante se si ferma il campionato rispetto a chi paga cosa. Damiano, ma gira una bozza di un comunicato firmato AIC di sciopero. La situazione è grave, il messaggio che il mondo del calcio oggi o comunque deve dare è che non si può giocare a calcio in Italia oggi. Quello che io posso dire a nome del Comitato Olimpio è una cosa che non si può vedere, non si può sentire, che ci sono dei campionati che vanno avanti e altri no. Si accentra Dybala, può inventare da lì, scarica su Ramsey, ancora dentro per Dybala, limite Dybala, sterza ancora, Dybala, rete, rete gol fantastico di Dybala, 2-0. Se c'è una categoria di persone a me fa paura sono i tuttologi, e quelli che parlano in mezz'ora di sei argomenti diversi. Io faccio l'allenatore e posso parlare di argomenti che girano intorno al calcio, e l'unica cosa che mi sono domandato oggi è se è giusto togliere 2 ore di divertimento, di svago alle persone che sono bloccate in casa e far rischiare qualcosa a tutti gli addetti ai lavori. Non lo so sinceramente. Prendi la fotografia sonora di una domenica surreale, forse oltre le attese. Bravi Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato. Vi dico che oggi pochi selezionati ospiti, perché vogliamo sentire soprattutto la voce di voi ascoltatori. Si gioca? Non si gioca? Si sospende tutto? Non si sospende tutto? Ma anche sulla partita di ieri sera, ma perché no? Non è peccato, certamente non è peccato parlarne. A proposito, tutti convocati oggi pomeriggio alle 15, non da noi ma da Malagò, convocati i presidenti delle varie federazioni via Skype, decideranno una uniformità di condotta, mettiamola così. Contatti, WhatsApp vocali 349-238-6666, numero verde 800-24-0024. Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao Pier. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Dicevo, fotografia sonora di una domenica surreale, prevedibile ma oltre le previsioni. Alla fine la Juventus ha battuto l'Inter in una partita che somigliava alle colonne d'Ercole, no? Sul fronte agonistico, ma anche politico-sportivo, anche sociale, anche quello che vuoi. Oggi sul fondo che hai scritto sulla Gazzetta, sul tuo editoriale, hai posto 1000 domande che oggi restano senza risposta, a cominciare da quello che potrebbero decidere domani in assemblea di Lega. Andrea, come la mettiamo a questo punto? La mettiamo secondo me così. Io ieri sono rimasto sconcertato dal pressappochismo con cui un ministro della Repubblica, il ministro dello sport, poi il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, poi altri professionisti del settore si sono messi a dissertare come se fossimo al bar, di temi che invece richiedono informazioni certe e consapevolezza che ogni azione che viene presa in questo momento ha delle conseguenze. E invece sembra che si parli in maniera demagogica di qualcosa che invece si deve conoscere bene. E allora mi sono chiesto, perché quel forte dubbio ho avuto sentendo il ministro Spadafora in televisione, se sapesse o meno a che cosa si va incontro quando si dice fermiamo tutti i campionati. Oltre all'anomalia di aver avuto un decreto nella notte di sabato che prevedeva di giocare il calcio a porte chiuse e la mattina dopo ti ritrovi un ministro che ha comunque collaborato a quel decreto che dice una cosa completamente diversa, e quindi già questo mi sembra piuttosto grave, È evidente che se tu prendi e fermi il campionato all'improvviso, quando un decreto ti permette di giocarlo, tu vai incontro ad una serie di reazioni. E allora ci chiediamo, le prime, faccio proprio rapidamente le stesse domande che mi sono posto nel fondo nell'editoriale di oggi della Gazzetta dello Sport. Se si ferma il campionato, si sa che probabilmente non si possono recuperare le giornate perché non ci sono più le possibilità di recuperarlo, e quindi che cosa si fa a quel punto? Nel momento in cui non giocano in campionato, le nostre squadre italiane vanno a giocare in Europa? Non credo, perché a quel punto, se per motivi di salute, non le fai giocare neanche in Europa. Che cosa succede del campionato di calcio? Che fa? Si frizza? Si ferma? Si sospende? Si è parlato con l'UEFA per capire appunto come ci si intende regolare? C'è una possibilità di far slittare questo campionato? Cosa si fa con le televisioni? Perché nel momento in cui si sospende tutto, tu vai incontro anche a delle cause, cioè le televisioni che hanno pagato probabilmente le devi in qualche modo risarcire. Nello stesso tempo i club si sono già impegnati con i soldi che ricevono dalle televisioni e quindi vogliono essere pagati. L'Associazione Italiana Calciatori, che dice noi ci fermiamo e scioperiamo, nel momento in cui si ferma il campionato i giocatori lasciano lo stipendio sul tavolo perché non continui a percepire gli stessi identici soldi se non giochi. Ecco, allora io dico, ci sono tutta una serie di elementi, va bene? Questi elementi devono essere A, conosciuti, B, si deve fare probabilmente un tavolo serio per prendere delle decisioni in cui si conosce anche che quelle azioni prevedono una serie di reazioni. Se dopodiché, ed è la domanda finale, tutto questo deve lasciare assolutamente il posto a una situazione che viene definita drammatica e per cui si deve sospendere tutto, e quindi tutte le domande che ho fatto non contano più, non ce ne frega niente, allora però non può essere che si chiede alla Lega di prendere quella decisione o si consiglia alla Lega di prendere quella decisione. Allora si fa un decreto legge serio, inequivocabile, che non possa essere interpretato da una parte e dall'altra, e si dice si sospende il campionato. Ma qualcuno si deve prendere quella responsabilità. Lo scaricabarile non può essere D'Alpino, e non può essere D'Alpino, ma perché? Ma non scherziamo. Perché ieri abbiamo comunque mandato in giro per il mondo un'istantanea, perché in questo momento sembra quasi peccaminoso parlare di soldi e non lo è, di sport e non lo è. Niente di tutto questo è peccato. Rimane il fatto che ieri abbiamo mandato in giro per il mondo un'istantanea da Parma raccapricciante, perché tu non puoi non puoi richiamare due squadre in campo con il ministro al telefono che dice Lega per favore sospendete, ma scusa, tu governo non hai detto che dobbiamo giocare a porte chiuse, siamo qui per giocare a porte chiuse. Questo mi sembra intuitivo che non vada bene, credo che siamo tutti d'accordo, anche tu Pierluigi, no? No, ma assolutamente, lo spettacolo offerto ieri non è all'altezza, ed è questo clima, per carità, un po' di incertezza, io sai che sono sempre portato anche a vedere le scusanti. Un po' di incertezza in tutta questa situazione c'è, perché siamo di fronte a un territorio completamente sconosciuto, il modo in cui questo virus si è diffuso, il fatto che ne sappiamo poco, il fatto che anche all'interno della comunità scientifica c'erano posizioni diverse, è inutile nasconderlo, no? Quindi alcune delle conversazioni, dei dibattiti, anche delle polemiche che ci sono state in questi giorni hanno un senso logico. Una settimana fa a Tiki-Taka parlavamo di Juve-Inter con gli aggiornamenti, a chi conviene, a chi non conviene, uh-huh. Non lo so, ne parlavamo anche in radio, cioè voglio dire, chiaro. Faceva parte, era quello lo scenario. Oggi a riguardare quelle robe si accappona la pelle, sono io il primo a dirlo, no? Fino a qualche giorno fa Juve-Milan di Coppa Italia, che poi non si è giocata, doveva essere a porte aperte, vi ricordate? Era mercoledì scorso, sembra un secolo fa, quindi è chiaro che qui la situazione è in continua evoluzione e ci sono mille interessi da mettere insieme, mille punti di vista da mettere insieme, però questo è un tempo in cui veramente deve prevalere la... No, certo, però si tratta di trovare una risposta univoca alle domande, alle tante domande che Andrea Di Caro ha posto, no? Anche perché la situazione, il calcio non è l'oppio dei popoli o semplicemente un vezzo, un passatempo domenicale, è molte altre cose. Quindi non vale la logica qualunquista, ma cosa pensate a giocare in questo momento? No, non è così. Si tratta di trovare, Carlo, che una risposta... Ma anche la cosa che dice il presidente del CONI in questo momento, ma tutto lo sport si è fermato. Ragazzi, facciamo delle distinzioni pure qui, perché, ripeto, se ci sono... Io vorrei semplicemente che ci fossero delle decisioni chiare di gente però che non parla per sentito dire o semplicemente per raccogliere un applauso, ma perché sa di che cosa sta parlando. Sì. E quindi è quello a cui ci affidiamo, da un ministro, a un, ovviamente a partire dal governo, al ministro competente e poi ai vari presidenti delle varie istituzioni che sono in causa in questo momento. Ma nel momento in cui il presidente del CONI dice il resto dello sport si è fermato, tutto il resto dello sport, che non sia il calcio, ma non fattura quello che è lo stipendio di Ronaldo in un anno. Esatto. Ragazzi, se non ci facciamo questa domanda e se non capiamo che l'industria calcio è uno dei motori del paese, non me la puoi comunque paragonare a se è fermato il campionato di boccette. No, ma chiaro, ma poi va anche detto, Andrea, che se guardi l'intero panorama la situazione non è univoca. Ad esempio, si è fermato il basket, ma non le coppe europee di basket che le italiane dovranno affrontare in settimana. La pallavolo ha più o meno giocato, Milano non ha giocato perché c'erano dei giocatori che avevano 37,5 di febbre, quindi si è deciso con Padova di non giocare. All'estero per ora si gioca in condizioni normali, si corre la Parigi-Nizza di ciclismo, in Qatar si è corso Moto2, Moto3, ma non MotoGP perché non potevano andare là. In Australia andrà la Formula 1, che poi correrà a porta chiusa in Bahrain. È chiaro che la situazione è molto caotica, ma non, cioè, si tratta anche di coordinare le varie esigenze, le varie situazioni anche internazionali, perché che succede se domani fermano il campionato, poi si devono giocare coppe europee? È quello che stavo dicendo. Ecco, allora io quello che dico è, io mi rendo conto che è un momento difficile, è un momento caotico, è un momento in cui si vive la giornata, ma proprio per questo c'è bisogno in queste fasi di chi, avendo ruoli importanti, abbia anche credibilità, leadership, competenza, possa indirizzare, segnare una strada, ma facendolo con cognizione di causa. Cioè non si possono prendere le decisioni o continuare semplicemente, soltanto perché siamo nel 2020 e nell'era dei social, a sparare la prima cosa in un post, che si tratti di Instagram, di Facebook, uh-huh, o di un'altra cosa, a cui poi un ministro della Repubblica risponde al post di Tommati. Ragazzi, ma a me sembra veramente su scherzi a parte in certi momenti. Sì, sì. Soprattutto, ferma restando l'autonomia dello sport, il governo ha potere, cioè molte delle figuracce, diciamolo, che ci sono stati in queste settimane e che hanno coinvolto i presidenti, l'attacco di Zhang, la discussione con D'Alpino, comunque la si voglia vedere, non rientro nel merito, ma insomma questo spettacolo di litigiosità che è stato dato è dovuto anche al fatto che non è che il governo ha preso da subito una posizione univoca. Poi ripeto, il governo ha le sue scusanti, perché due settimane fa giocare Juve-Inter a porte aperte sembrava una cosa possibile, così come si sta giocando a porte aperte in Germania. Ecco, io non auguro agli amici tedeschi ovviamente di trovarsi di fronte a quello che noi viviamo oggi e che due settimane fa invece era impensabile, o comunque era lo scenario peggiore. Quindi questo è ovvio che è fondamentale, però il governo e la politica, se avesse preso in mano la situazione da subito con un atteggiamento diverso, insomma, avrebbe cambiato le regole del gioco. Ma le decisioni devono arrivare da lì, in dubbio. Se tu lasci ai vari prefetti, ai vari presidenti di regione, vi ricordo che Udinese Fiorentina a un certo punto è saltata perché Fedriga ha detto che non avrebbe accettato le porte chiuse. Cioè, voglio dire, ma ripeto, ognuno ha fatto il suo ruolo in commedia, la sua parte in commedia, ma perché l'ha potuto fare. E invece col senno di poi, drammaticamente, noi dovevamo il 22 di febbraio chiudere il paese e forse non saremmo arrivati a questa situazione e ci saremmo risparmiati con lo spettacolo. Però è pure vero che il 22 febbraio, se tu chiudevi il paese, beccavi una parte che in assoluta buona fede ti diceva: ma che stai facendo, ma non esageriamo. E quindi questo è lo scenario. Sì, rimane poi anche il retropensiero, Andrea, che la battaglia sulla trasmissione televisiva delle partite abbia giocato un suo ruolo, no? Con questo balletto, anche lì poco facilmente comprensibile, oppure meglio, tristemente comprensibile ma non giustificabile, sulla conoscenza delle normative e delle procedure. Ma non c'è dubbio, ma anche lì, io ripeto, ma ci sono delle aziende, ci sono degli interessi, ci sono dei diritti che sono stati ceduti, ci sono degli accordi da prendere, ci sono giustamente delle aziende che a quel punto vogliono essere rassicurate sull'investimento che hanno fatto. Cioè, non è che è un gioco, per cui, io ho consigliato di dare le partite in chiaro e in differita, ho sentito ieri. Ma adesso guardi, parlo con Pierre, che ovviamente è del settore specifico più di quanto non lo sia io. Ma chi se la vede una partita indifferita, ragazzi? Ma noi viviamo ormai H24 collegati con un telefonino, quello che succede dopo 10 secondi tu lo sai in diretta, io sì. Mi vedo la partita in mi fermo e mi vedo la partita in differita. In bianco e nero, Andrea. In bianco e nero, la telecronaca differita del secondo tempo di una partita di calcio di Serie A. No, magari oggi Juve-Inter, che è l'eccezione, qualcuno se la rivedrebbe pure, ma Juve-Inter oggi, insomma, dai, non c'è dubbio, siamo in una situazione surreale. Siamo in una situazione surreale perché siamo in un territorio sconosciuto che è molto più grande di noi. Poi certo, le inadeguatezze della classe politica, le piccolezze dei presidenti, le cose che non funzionano si sono viste. C'è qualcuno che ha lavorato per il dialogo. Sembra proprio che sbaglio. Per esempio che la Federcalcio onestamente abbia lavorato sempre per portare una sintonia, per favorire un dialogo, per rimettere a posto i presidenti quando c'era da fare una proposta. Questo vedo da fuori e non è che ho simpatia o antipatie particolari, però mi sembra che un ruolo l'abbia svolto da questo punto di vista. Però gli interessi sono talmente tanti, in certi momenti collidono e insomma. Comunque, altra domanda che ti poni, ma metti che domani decidano di sospendere tutto, ma che fanno i giocatori? Stanno a casa in quarantena o continuano ad allenarsi? E se continuano ad allenarsi, qual è la posizione della sua calciatori? Vanno a correre da soli nel parco? Un'altra delle domande che ponevo, la ponevo da ieri pomeriggio, e mi sembrava assurdo che non ci fosse qualcuno che queste domande se le fosse poste prima di uscire allo scoperto. Perché allora diciamo una cosa, sulla salute non si scherza e non si gioca, di chiunque, va dal poveraccio al milionario, okay? Perché la salute vale per tutti. Dopodiché è indubbio che se c'è una categoria in questo momento ipercontrollata è la categoria dei professionisti del calcio di Serie A, no? Che hanno comunque medici, controlli continuamente, per cui probabilmente se c'è un caso, il primo caso che si trova, se c'è, è proprio in una squadra di calcio, perché sono controllatissimi, no? Quindi questa è già una certezza, il che non significa che tu non devi prendere tutte le precauzioni per la loro salute, indipendentemente da quello che guadagnano. Però a quel punto che fai? Appunto sospendi tutte le attività, cioè i ragazzi non si allenano neanche, oppure corrono a 2 metri di distanza intorno a un campo, e quindi sospendi per un mese l'attività sportiva, ti alleni soltanto in palestra, non ti alleni neanche, non giochi più, arrivi poi dopo un mese praticamente di mancati allenamenti ai prossimi eventuali impegni, sempre che ci saranno. Cioè ci sono tutta una serie di considerazioni che secondo me vanno fatte, e vanno fatte prima di, in questi casi, di aprir bocca. Ora mi rendo conto che la gente vuole risposte, mi rendo conto che viviamo appunto nell'era dei social, in cui tutti sono chiamati a dire la propria o a metterci la faccia e il nome, anche quando si parla di presidenti o di ministri. Però credo che proprio certi ruoli impongano un po' di cautela, e quindi prima di uscire allo scoperto si cerchi quantomeno di dare l'impressione di sapere di che cosa si sta parlando, perché altrimenti si aggiunge confusione alla confusione. Mi rendo conto che non è facile, ma in teoria non si dovrebbe essere ministri della Repubblica per caso, si dovrebbe essere ministri della Repubblica proprio perché si hanno competenze e conoscenze. Sì. E su questo aggiungo, perché poi non voglio fare il politologo con le analisi critiche di politica, perché mi occupo semplicemente di sport, faccio il giornalista sportivo, però ciò non toglie che dobbiamo avere delle opinioni anche sul resto, è che mi auguro che in futuro, quando si affidano i ministeri, non si affidino semplicemente per giro di poltrone o per spartizione politica, ma anche per conoscenza del mondo che si va a gestire e che si va a coprire, perché non c'è cosa peggiore di vedere, in questo caso non parlo di Spadafora in particolare, ma di vedere ministri che passano magari da un ministero all'altro o da aree completamente diverse nella propria carriera, e che dimostrano poi veramente a volte di non sapere di che cosa stanno parlando. Questa considerazione generale di diritto costituzionale in ogni caso. Proviamo, prima di dare la parola agli ascoltatori che ho già convocato, sono Paolo e Antonio già in linea, proviamo a fare inversione a U su questa tangenziale. La partita di ieri sera, datemi un giudizio su quello che abbiamo visto sul campo, pur con tutta la tara che bisogna fare sul clima, sul momento, eccetera eccetera. Calcisticamente cosa avete visto, Pierluigi? Beh, non ho visto una brutta partita, ho visto una partita, cioè, al netto di tutte le cose sacrosante sul clima, sul reale, Diciamo che il divertimento non c'è, è impossibile da ricreare. Forse qualche tifoso della Juve avrà sorriso, magari avrà anche goduto, come è giusto che sia, e qualche tifoso dell'Inter sarà sprofondato in quei 90 minuti nella disperazione, però è chiaro che il clima non è quello giusto. Tutto questo, io ho visto una buona partita, tanto il punto di partenza, ho visto una buona partita con una discreta Inter nel primo tempo per un tratto, ma con la Juve che secondo me ha veramente dato una risposta. Questo va detto, va riconosciuto. Assolutamente. E c'è anche secondo me, proprio quel tema lì ambientale, ulteriormente da sottolineare. Comunque giocare a porte chiuse non è come giocare col fattore campo. Non c'è dubbio. Non... che si doveva giocare a porte chiuse, ci mancherebbe altro. Non c'è dubbio, ma guardandola così possiamo scegliere un'istantanea, Andrea. Lezione di Sarri a Conte ieri, perché se l'Inter era chiamata alla partita della vita, certamente non l'ha fatta. La magia del subentrante di Dybala, l'eclissi di Lukaku, scegliene una. No, scelgo la seconda, quella della magia di Dybala e l'eclissi di Lukaku. Non andrei sulle lezioni di calcio sicuramente, però la Juventus ha dimostrato ancora una volta, quindi nel doppio confronto con l'Inter, di essere superiore all'Inter, di avere più soluzioni, di avere più calciatori, di avere anche magari a sprazzi però delle alternative di gioco diverse da uno spartito un po' monotematico dell'Inter, che ha consentito all'Inter fino ad oggi di essere in alto in classifica, di essere anche prima in classifica, ma che, come abbiamo detto anche prima del mercato di gennaio, che l'Inter aveva un po' di difficoltà a cambiare quello spartito. L'arrivo di Eriksen non ha cambiato completamente le cose come ci si aspettava. Anzi, sembra quasi sia diventato un elemento di dubbio. Beh, questo sarebbe sbagliato, perché Eriksen resta un grande calciatore, però mentre quando tu inserisci Dybala a partita in corso, inserisci un giocatore che conosce tutto del calcio italiano, che ha anche caratteristiche diverse, perché Dybala trova il gol in maniera diversa rispetto a Eriksen, sono due giocatori diversi, lì ti giochi comunque il jolly, e quel jolly la maggior parte delle volte ti fa vincere la partita. Nel caso di Eriksen, inserirlo a partita in corso ha delle caratteristiche diverse, conosce meno il nostro calcio, conosce meno i compagni dell'Inter e quindi è meno decisivo. Dopodiché è evidente che forse per il tipo di gioco che ormai l'Inter ha messo in piedi e di cui Conte si fida, evidentemente lui predilige giocatori come mezzala con caratteristiche differenti. Sì. Grazie Andrea. A presto, grazie, ti abbraccio. Poi grazie, posso, Andrea. Posso dire una cosa? Certo, devi. Carlo, su questo, secondo me, questo è un po' un tema. Nel senso che più in generale, il fatto che l'Inter non abbia un piano B, dici? No, è questo che insomma, intendi? L'Inter ha investito sul mercato per cambiare, per migliorare. E sta andando peggio di prima. Cioè, è quello, molto bene, è quello che ti dico. È un po' frenato. È quello che comincia ti dico. Essere... È quello che ti dico, cioè, quello che ti dico è un elemento di incertezza. Eriksen, lo vedi che è un grande giocatore, ma dentro quel mosaico lì al momento non ci sta. E hai ragione quando dici sembra che l'Inter fosse meglio, dava un'impressione migliore prima di un mercato che è stato comunque estremamente importante. Ora non so se siano contingenze o se sia qualcosa di strutturale. Quasi manchi un piano B, la possibilità di inserire un giocatore con caratteristiche diverse rispetto al puzzle che avevi immaginato prima. È questo il senso? Sì, è un piccolo capo di imputazione, secondo me, di una stagione che rimane positiva, perché se l'Inter rimane positiva non va dimenticato di partenza dell'Inter, però è chiaro che in questo momento, insomma, le ultime sconfitte hanno ridimensionato molto, perché comunque le due finali scudetto l'Inter le ha perse. Sì, e ha perso anche con la Lazio, appunto, l'Inter ha perso le due con la Juventus, e sono quei sei punti che al netto all'ora della partita da recuperare con la Sampdoria dividono l'Inter e la Juventus, e ha perso con la Lazio la partita di ritorno, quindi i confronti diretti fino adesso recitano tre sconfitte e una vittoria molto tempo fa con la Lazio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie della convocazione. Intanto ascolto Andrea Di Caro da ieri e quindi condivido tantissimo di quello che dice. Io sono favorevole a mantenere in corso il campionato e cerco di spiegarlo con due considerazioni. La prima è che Juventus-Inter di ieri sera, insomma, credo che abbia detto che anche senza pubblico si può fare del calcio spettacolare, una partita gradevole che, seppur percepita senza clamori del VAR, di un pubblico che osanna i suoi campioni, credo che sia stato un bello spettacolo. Ma più che altro volevo aggiungere un'altra considerazione, che era questa: fermiamo il campionato. Naturalmente le squadre, i team continuano ad allenarsi, cioè ognuna delle squadre continua a fare vita sportiva, sociale, esattamente come la fa come la fanno tutte le altre, quindi al netto dei trasferimenti se non si ferma la Champions, la vedo dura che la Juve si fermi in campionato e non continui ad allenarsi. La vedo dura anch'io, però se si ferma, cioè anche lì è un, ovviamente è un aspetto collaterale, ma che ha un rilievo. Lo dicevo prima, cosa fanno i giocatori se decidono di fermare tutto? La Champions che cosa fa? Va avanti? Continuano le coppe? Non continuano le coppe? La squadra italiana non gioca più. La necessità di un coordinamento. Il coordinamento internazionale è fondamentale, è decisiva, però io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio. Purtroppo quello che stiamo vedendo, che sta succedendo in Germania e in Francia negli ultimi giorni, così sembra assomigliare alla situazione italiana di un po' di giorni fa. Quindi forse il resto d'Europa non ha ancora capito, o forse magari fra poco usciremo noi da quest'incubo, me lo auguro con tutto il cuore, insomma, però veramente insomma. La situazione tedesca e francese oggi è lì, giocano ancora a porte aperte. Non so. Germania già si valuta. No, è chiaro, bisogna mettersi d'accordo tutti quanti. C'è anche un europeo in prospettiva, che in questo momento sembra una prospettiva estremamente lontana, purtroppo. Paolo, buongiorno, poi ci fermiamo per la borsa. Sì, buongiorno a tutti. Io purtroppo mi trovo a dissentire con l'ascoltatore che ha chiamato prima, nel senso che sono proprio dell'idea che questo campionato debba essere invece interrotto immediatamente. Anche perché ieri mi sono guardato le due partite da Zone, Sky, Milan-Genova e Juve-Inter. Purtroppo non ce l'ho fatto arrivare a vederle tutte. È stato uno spettacolo molto molto noioso ad un certo punto. Si vedeva che mancava quel lato emotivo che traina, secondo me, tutto il sistema. Sì. Anche gli sforzi dei conduttori bravissimi, Pardo, tutti, immagino anche tutti voi addetti al lavoro, però sotto manca ieri, però come... Sicuramente sono stati bravi. Certo, però bravissimi. Ma ha ragione. Ma... Sai, Pier, non lo so. È un fatto di cioè... clima e non di voglia, avrebbe detto, a proposito di questioni ben più piacevoli, Francesco Guccini in Eschimo, ecco. È un fatto di clima e non di voglia in questo momento, ragazzi. Boh, non lo so, secondo me per fermare tutto ci deve essere una ragione che può essere ovviamente comprensibile a tutti, perché su questo, dicevo prima di andare a dedicare, condivido, non si scherza, ci deve essere una ragione di salute pubblica. Se lo spettacolo è diverso, probabilmente non è una ragione sufficiente, anzi certamente non lo è. Allora fermiamoci per la borsa, che insomma anche lì da oggi arrivano notizie preoccupanti, sentiamole, poi torniamo. Ragazzi, fermare tutto, e poi quando si calma si giocano anche 3 partite a settimana. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Paolo, quando entra in questi momenti della partita, è un giocatore che può devastare una partita. È una vittoria importante, ma è chiaro che in questo momento in teoria ci sono ancora 13 partite da giocare, 12 partite da giocare, quindi il percorso da fare è ancora lungo. La Juve si avvicina a quello che voglio io stasera, per energia molto di più, per qualità di gioco. Mi è piaciuto molto la Juve per il primo e il secondo gol. Sicuramente una sconfitta che ci deve aiutare a crescere e a capire quanto siamo distanti. Non ci deve sicuramente buttare nello sconforto, perché lo sapevamo che c'era un gap con loro, siamo stati bravi a tenerlo vivo. Detto questo, i due incontri con loro comunque alla fine li abbiamo persi tutti e due. Sarri e Conte, Conte e Sarri. Io continuo a pensare che insomma Sarri abbia battuto Conte, perché se questa era la partita cruciale, ebbene, e quella dell'andata, la partita cruciale, è finita 4-1, 6 punti per la Juventus, 0 per l'Inter. Se questo era il confronto scudetto, per quel che può valere, e sperando che scudetto sarà da qualche parte in Italia, e beh, insomma, continuo a pensare che in questo frangente Massimo Zampini possa essere sportivamente soddisfatto. Ciao Massimo. Sì, ciao, ciao. Sì, parlando di calcio, sì, devo dire che abbiamo avuto tante riserve anche nei confronti di questa Juve e anche di Sarri, diciamolo, e oggi è la vittoria di Sarri. Perché comunque, oltre che dei ragazzi, ci mancherebbe altro, e della società, che secondo me ha tenuto un profilo giusto in tutta l'attesa di questa partita. Però, secondo me, ho visto dei giocatori convinti, che hanno capito che tipo di partita sarebbe stata, probabilmente a porte chiuse, che ambiente avrebbero trovato, decisi sin dal primo minuto e continui anche dopo il primo gol, rischiando pochissimo. E quindi stavolta, diciamolo, chi non aveva il piano B era Conte e non era Sarri. Sì, condivido, Pierluigi. Sì, sì. Non c'è dubbio, ma ti ripeto, secondo me su Conte, che rimane l'allenatore al quale diamo un voto alto in questa stagione, all'Inter io do un voto alto, però è chiaro che da qui a un mese a questa parte le cose sono cambiate, e sono cambiate soprattutto perché gli investimenti di mercato di gennaio, che dovevano potenziare la squadra, invece paradossalmente hanno tolto quasi certezze e hanno portato poco, ed è un peccato, perché poi per me Eriksen è un grande giocatore, per non girarci attorno. Senti, ma la sparizione di Lukaku, su cui poi magari lo sentiamo dopo, su cui Di Canio si è di nuovo divertito, come la valuto? La valuto il fatto che ha sbagliato una partita, però insomma, voglio dire, non è che il derby di Milano non fosse una partita importante, quello d'andata e quello di ritorno. Cioè, io credo che nella vita la cosa molto brutta sono le etichette. Lukaku non sarà probabilmente il più spietato realizzatore sotto porta della storia, il miglior attaccante al mondo, ma la sua stagione mi sembra di altissimo profilo, e tanto per non girarci attorno, secondo me oggi l'affare tecnico l'Inter comunque l'ha fatto, perché Icardi sta faticando molto di là, anche per colpa, tra virgolette, di quello che dicevo dall'inizio, cioè di una concorrenza feroce, perché e poi di un ambiente che te lo regalo, no, quello di Parigi. Poi, oggettivamente, insomma, lì con Mbappé, Neymar, Cavani non è facile. Però insomma, magari da qui fino alla fine della stagione ancora ci sono margini, magari Icardi, glielo auguro, farà delle cose pazzesche, o Lukaku farà delle cose pazzesche. Ieri Lukaku è mancato. Non c'è molto da discutere, però non ne farei, cioè sinceramente non ne farei una regola partita, generale, se ne sbaglia 5, se sbaglia 10, allora ne parliamo, chiaramente non diventa una regola generale, stiamo forzando l'immagine. Invece sull'altro fronte, Massimo, uno che venisse da un altro pianeta potrebbe domandarsi, a parte lasciamo stare lo stadio vuoto eccetera eccetera, guardando la partita dice: ma quel numero 10 che cosa ci fa in panchina con la maglia bianconera? Perché sta in panchina? Per quale ragione? Ma guarda, prima al volo chi viene da un altro pianeta guardando De Ligt e Bonucci si chiederebbe anche perché spesso viene trattato De Ligt come uno che stia fallendo la sua stagione di esordio, cosa che per me non è affatto così, in un contesto difficile senza Chiellini eccetera eccetera. Comunque, arrivando a Dybala sta in panchina perché, direi, a questo è l'altro pianeta, in campo c'era Higuaín, che ha fatto un altrettanto ottima partita senza la giocata fantastica ovviamente che ha fatto Dybala. E Dybala, se può entrare a mezz'ora alla fine, e stessa cosa capita a Higuaín, a Douglas Costa, chi può entrare rende come e ti può distruggere la partita. Quindi secondo me in questo senso non possiamo dare colpa a Sarri di volta in volta se sta in panchina uno di questi big, perché no, ma anzi dico, l'importante è metterlo, però spero che capirai che è strano, cioè tu dici un giocatore così che ha fatto una stagione di questo tipo sarebbe il titolare in qualunque squadra del mondo, poi ne giocano altri 10. Sì, hai ragione, qua c'è un punto, Higuaín, per dire, ieri secondo me, e qua Sarri ha mostrato di essere abbastanza elastico, mentre noi spesso gli abbiamo affibbiato l'etichetta, proprio quello che diceva Pier, di rigido, mette Higuaín come primo schermo su Brozovic e fa un lavoro da regista offensivo, secondo me è molto utile. Poi Dybala, ripeto, entra, c'ha tutto il suo spazio, ma Dybala quest'anno secondo me c'è una cosa straordinaria: ha la testa giusta. E anche qua do del merito a lui e anche però all'allenatore, perché non è che solo quando le cose vanno male va fatta una valutazione. No, ma lo dico a voi, dico in generale anche nelle mie valutazioni. Dybala era uno che troppo spesso faceva 2 mesi buoni e poi spariva, oppure se entrava o se lo toglievano faceva il muso e basta. Quest'anno può fare quello arrabbiato se esce. Però io ieri ho visto per esempio l'esultanza al gol di Ramsey, è bellissima di Dybala, perché Dybala sta per entrare, quello potrebbe ritardargli o addirittura cancellargli l'entrata, ma lui esulta come un tifoso, proprio saltando in piedi felice per il gol del compagno. Entra ed è subito con la testa nella partita, e secondo me questo è un grandissimo progresso di Dybala. Sì, non c'è dubbio. Non sono i numeri, adesso Zampini avrà le statistiche sotto mano. I numeri il piatto forte della stagione di Dybala, è l'importanza delle cose che sta facendo. È la testa con la quale entra, io sono perfettamente d'accordo. Insomma, lui è capace di un talento scintillante. Secondo me, a livello di grandissimi club, la sensazione, la tentazione di vederlo spesso in corso d'opera c'è, perché è un giocatore perfetto per. Ricordate il Montella della Roma dello scudetto, non si arrabbiava così tanto con Capello, però c'era un fondo di verità. Del Vecchio sfiniva gli avversari, faceva il lavoro sporco, Montella entrava mezz'ora dalla fine. Per cui, a proposito della domanda di partenza, è chiaro che fa effetto vederlo in panchina e non a caso spesso gioca anche da titolare, però non è un'eresia secondo me in assoluto, cioè la gestione dei due attaccanti in questo modo secondo me ci sta. Uno che fa un lavoro più di, anche se onestamente Pier, ammetterai che la grande novità della stagione di Dybala si riassume nella parola continuità. Sì, però sai, una continuità sì, ma non c'è dubbio, ma il voto della stagione di Dybala è alto, secondo me non c'è da discutere. Ma ripeto, più della quantità i gol che ha fatto è il contributo in certe situazioni che è stato veramente importante. Fermiamoci un attimo per il traffico, ma torniamo subito. La gente va comunque al lavoro, non capisco perché i calciatori debbano stare a casa. Qual è il loro pericolo di stare in 30 persone in un campo da calcio? Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Rispondo a un WhatsApp scritto da Antonio da Brescia: siete sempre convinti che il Pipita stia facendo una grande stagione? Io sì, sta facendo un'eccellente stagione, anche se, per parafrasare Pierluigi Pardo, non si valuta tanto sui numeri la stagione di Higuaín dal punto di vista realizzativo, ma sul contributo alla causa, no? Massimo? Sì, è così. Proprio più di gol ci starebbero, nel senso. Eccellente, dai. Esatto, anche secondo me. Bisogna essere onesti, perché le parole sono importanti, direbbe Anni Moretti. Higuaín sta facendo una buona stagione, di grande intelligenza. Cioè, lui era partito dalle retrovie, si è ritagliato un ruolo, sta facendo il famoso per la squadra, e quindi merita, secondo me, un applauso da questo punto di vista. Sì. Le stagioni eccellenti di Higuaín sono state altre. Quelle da 30 gol, certo. Il sospetto che non sia più, ma fa parte della vita, il capocannoniere esplosivo meraviglioso di qualche anno fa, io ce l'ho, insomma, secondo me giocava anche in un altro contesto, contesto disegnato su di lui. Carlo, c'aveva 3 anni di meno, per gli attaccanti spesso ci sono quelli che migliorano con l'età e ci sono quelli che perdono con l'età, però detto questo la stagione è buona, non direi eccellente, la stagione è buona e secondo me è una stagione di grande intelligenza, cioè lui secondo me non ha più le doti. Magari le riavrà in futuro, ma in questo momento non ha le doti che aveva 3-4 anni fa, di esplosività, di senso del tempo, di prolificità, però comunque riesce a essere importante, tant'è vero che spesso parte titolare lui con Dybala in panchina, e non è che parte perché Sarri sia masochista, ma parte per quello che dicevamo prima, perché comunque è in grado di dare un contributo alla causa. Sta facendo un po' una stagione alla Mandzukic. Come spirito, certamente non come gioco, Massimo. Sì, no, io sono d'accordo, qualche gol in più ci sarebbe bene. Poi secondo me sono d'accordo con Pier sull'analisi sull'intelligenza, cioè Higuaín sta dimostrando che perdendo alcune qualità ne sta mostrando altre che sono per me di altrettanto valore. Ieri il secondo gol che abbiamo rivisto noi juventini tante volte su internet o negli highlights, il secondo gol che è una genialata di Dybala e un bel triangolo con Ramsey, però sostanzialmente nasce con una sorta di recupero di Higuaín, poi Ronaldo che appoggia Bentancur, Bentancur che va, cioè io ieri ho rivisto uno spirito dagli attaccanti a tutta la squadra, alle esultanze, a Sarri che batteva i pugni dietro la panchina, quasi come se in un momento di difficoltà seria, che prescinde quasi dal calcio, si fosse ritrovato un gruppo di amici, di colleghi e di compagni che vogliono lottare per la loro professione al meglio, insomma, questo mi è piaciuto molto. Sì, un ultimo giro d'opinione su Sarri e torno lì perché è inutile far finta di nulla, il grande imputato prima di questa partita, eravamo rimasti alla notte di Lione, poi non avevamo ovviamente più visto la Juventus, il grande imputato era lui ha risposto non mettendo l'insostituibile, perché nell'idea Pjanic sarebbe insostituibile, ma è sgonfio in questo momento, lasciando appunto Dybala in panchina, mettendo Bentancur nella posizione in cui l'ha messo, ha dato queste risposte, ha fatto queste scelte da grande imputato Pierluigi. Sì, e secondo me ha cambiato un po' anche l'inerzia del campionato, se arriveremo alla fine, perché la vittoria di ieri è una vittoria che secondo me ridà alla Juve una centralità, una forza, innanzitutto ci dice che la lotta è a due e non è a tre, ma questo insomma un po' lo potevamo già sospettare per la tendenza delle ultime partite. Io non cambio idea, penso che sia sempre un testa a testa, e anzi io credo che la Lazio, per quello che ci ha fatto vedere negli ultimi due mesi, abbia qualcosa di più della Juve in termini di continuità. È vero pure che quello che sta succedendo, secondo me, a parte che domani potrebbero addirittura decidere di interrompere il campionato, quello che sta succedendo non è a impatto zero. Sì, non è a impatto zero, nel senso che comunque cambia tutto, cambiano le abitudini, cambiano gli stadi, cambia il fattore campo. Ieri la Juve, diciamo, al primo exit poll, in questa situazione così, senza il calore dei propri tifosi, con tutta la pressione addosso di dover vincere per poter essere in testa alla classifica, ha dato delle grandi risposte. Questo quindi è... possiamo dire che tweet di Zampini, lo juventismo ha fatto pace con Sarri? Sì, ma poi sai, c'è Juve-Lione tra una settimana e quindi vedremo. Io giudico la partita di ieri, siccome dopo altre partite sono stati duri, ieri Sarri ne ha azzeccate tante, soprattutto l'approccio in una giornata molto complicata in quel clima surreale, e la Juve era più pronta dell'Inter, e quindi di chi è il merito se non dell'allenatore? Grazie Massimo. Ciao, grazie a voi. Ciao, a presto, ciao, a prestissimo. Chiudiamo con un paio di ascoltatori, Diego da Padova, Alessandro da Milano, buongiorno Diego. Buongiorno, allora mi inserisco nel vostro discorso, per me Higuain assomiglia al Vialli di Lippi gli ultimi anni, che ritornava sempre e cercava sempre di creare l'occasione. Però ero intervenuto, io sono abbonato Juve, abito nella zona rossa a Padova, praticamente siamo in zona rossa anche noi adesso, in merito a sospensione del campionato. Io sarei per la sospensione adesso, magari, e spostare gli europei al prossimo anno, come diceva Belinazzo l'altro giorno, se non sbaglio, aveva ipotizzato questa cosa in radio. Perché l'atmosfera di ieri, ho goduto tanto per il gol di Dybala specialmente, però non mi ha dato quel qualcosa che provo quando vado allo stadio a vedere la partita. Allora, tutto si può fare, però cioè, chi è deputato a decidere, tutto si può fare. Posso anche spostare gli europei, spostare le Olimpiadi. Se la situazione lo richiede, tutto si può fare, tutto deve essere fatto. Ci vuole una catena di decisioni che sia quella corretta. Semplicemente questo, no? Pierluigi, mi sembra di poter sintetizzare così. Non... Un mio amico dice: io non posso stare bene se gli amici stanno male. Cioè, quella cosa è questa, insomma, no? Per quanto poi il calcio sia una meravigliosa forma di estraniazione dalla realtà e dal resto del mondo, quando poi però la paura è così tanta e il dolore è così tanto, pure il calcio purtroppo ha poco effetto. Sì, rimane lì sullo sfondo ed è anche strano parlarne in questi giorni, però stiamo commentando comunque uno spettacolo sportivo che al momento c'è, domani non si sa, anche perché, ripeto, primo passo, oggi tutti convocati dal presidente del CONI Malagò, tutti i presidenti delle federazioni, oggi telereunione via Skype per prendere comunque delle così una per cercare di avere una linea comune che al momento non c'è, basta guardare la situazione dei vari campionati, cioè chi ha giocato di 20 secondi. Sì. Di 20 secondi, pensa a Bergamo. Tu pensa ai tifosi dell'Atalanta, ai quali mandiamo un abbraccio enorme in queste ore, che si giocano la partita della vita, trasferta, senza pubblico, in un clima veramente surreale, in una città, in una provincia che sono fra quelle italiane le più colpite. Tu pensa che destino incredibile, no? E che intreccio terribile esiste in questo momento fra la realtà, l'emergenza sanitaria e la passione del calcio. È una partita che a Bergamo aspettano da una vita. Certo, però, ci arrivano con una forza incredibile, però... Anche lì, torno a ripetere, però si dovrebbe e si dovrà cercare di uniformare il tutto, perché è uno scenario improponibile quello di un campionato italiano fermo e di coppe europee che proseguono, perché lì sinceramente non è inaccettabile, no? Ci scrive Paolo Bertolucci: hanno cancellato Indian Wells con pochissimi conclamati, probabilmente salterà Miami, vedo difficile la stagione europea del tennis, fermate. Tutto questo pensiero di Paolo Bertolucci che ci invia Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. E niente, volevo intervenire sia per il discorso di eventuale annullamento del campionato, lo trovo una sciocchezza di bloccare un'azienda con tutte le persone che ci lavorano dietro, anche noi tifosi che almeno ci danno un po' di conforto, per un rischio di 50 persone che sono in uno stadio mentre tutti andiamo a lavorare, rischiamo molto di più. E un'altra cosa invece, almeno una cosa positiva, tipo della partita di ieri, che mi è sembrato che i giocatori fanno meno scene, anche l'arbitro sia un po' più disteso, forse... e si è giocato anche forse con meno, cioè c'è stato più gioco effettivo, più tempo di gioco effettivo, o è stata la mia impressione, ma ecco. Non lo so, sono sensazioni, è una sorta di specchio deformante. Cioè, poi magari gli interisti non l'hanno, però ho letto per esempio dei tweet di Biasin, di Ciccio Valenti, molto, molto belli, molto nobili. È stata una bella partita, è stato un bello spettacolo. L'Inter ha giocato così, la Juve ha giocato molto bene, ma è stata bella, è stata corretta, è stata... sono d'accordo con l'ascoltatore, sicuramente. È stato un bello spettacolo televisivo, chiudiamola così, e poi la riapriamo domani alla luce di quello che succederà. Ricordo ancora oggi, tra poco, tra 5 minuti, questa riunione del presidente delle varie federazioni, e poi domani questo consiglio di Lega che aspettiamo con, diciamo, impazienza. Grazie per Luigi Pardo, Claudio Schettone, Gianmarco Ferronato, domani tutti convocati alle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!